Economia in Europa. In collaborazione con Euronet. Le parole di Mario Draghi e Mario Monti sulle politiche di crescita dei paesi dell'Unione Europea, il dibattito nato intorno alle indiscrezioni di stampa relative ad un ipotetico piano Marshall della Commissione Europea per riattivare la crescita, ma anche l'ipotesi di un piano su rigore e crescita economica che l'Italia starebbe per stringere con la Germania. Sono questi i principali argomenti di questa puntata di Economia in Europa. Sul lato delle politiche di bilancio, i paesi dell'Eurozona hanno fatto progressi, servono ora misure strutturali per rilanciare la crescita. Lo ha detto mercoledì 25 aprile il presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi in un'audizione al Parlamento Europeo. Un consolidamento fiscale attuato solo attraverso l'aumento delle tasse è sicuramente recessivo, ha detto Draghi, in risposta alla domanda di un europarlamentare italiano. Sentiamo. Un consolidamento fiscale attuato esclusivamente sulla base di un aumento di tasse è sicuramente recessivo. Idealmente il consolidamento fiscale dovrebbe essere attuato sulla base della riduzione di spese correnti e tra queste ovviamente quelle più improduttive. Quindi non ridurre le spese per infrastrutture, le spese per investimento, ma ridurre le spese correnti e non centrarlo sulle tasse. Quel che succede è che spesso in condizioni di urgenza, in condizioni di estrema tensione, si aumentano le tasse. Perché questo? Perché è più facile aumentare le tasse che ridurre le spese. Ed è più facile ridurre le spese in conto capitale che ridurre le spese correnti. Questo è quello che stiamo vedendo. Quindi parte degli effetti recessivi dipendono anche dal modo in cui il consolidamento fiscale viene attuato. Giovedì 26 aprile Mario Monti si è recato a Bruxelles per partecipare allo European Business Summit, dove il presidente del Consiglio italiano ha spiegato le possibili linee guida per rilanciare la crescita del vecchio continente. Sebastiano Barisoni ne ha parlato con Antonio Pollio Salimbeni, inviato a Bruxelles per Radio Cor il Sole 24 Ore. Oggi Mario Monti ha parlato della fase 2, in qualche modo anche con Van Rompuy. Il tentativo, se ho ben capito, Antonio, è di arrivare a una fase 2 europea, cioè non è che l'Italia può da sola partire con la fase del rilancio, sarebbe meglio che fosse uno scudo europeo. Sì, più che di fase 2 è affiancare alla fase 1 l'altro pezzo della fase 1. Cioè, vabbè, chiamiamola anche Maria. Sì, ma... non è una disquisizione di lana caprina, perché il legame è strettissimo. Non è possibile il consolidamento fiscale di bilancio, non è possibile neanche, ha detto oggi Monti, varare delle riforme strutturali anche pesanti, perché queste due cose insieme da sole non fanno PIL, non fanno crescita. Ci vuole qualcosa di più, perché si può migliorare la produttività, migliorare la competitività, ma se non c'è nessuno che compra i nuovi prodotti e servizi, siamo da capo. Sì, su questo non c'è dubbio. Tra l'altro Van Rompuy non ha escluso un summit, un vertice a fine a giugno, prima di quello 27 previsto per fine giugno, ma a me interessa, perché sai che poi ci piace un po' il sangue, capire se al centro di tutto non c'è un tentativo di ridimensionare il peso tedesco nelle scelte europee. Ma comunque ridimensionare il peso tedesco è pressoché impossibile, vista la preponderanza degli interessi tedeschi, dell'economia tedesca e dal fatto che la Germania, comunque, se cresce la Germania crescono anche gli altri. Siamo arrivati a un punto però in cui paradossalmente la situazione è opposta. Anche la stessa Germania rischia di battere in testa, perché non sa poi a chi vendere le merci, se è vero che esporta, se vende il 40% di ciò che produce nell'Eurozona. Quindi di qui la necessità di ricentrare l'asse delle politiche. Si tratta di vedere, adesso ormai tutti parlano di crescita, ne parla Hollande, ma prima ancora di lui, diciamo la verità, ne parlava anche con una certa intensità e forza lo stesso Sarkozy, ne parla Monti, adesso ne parla finalmente la Merkel. Si tratta di vedere questo gran parlare che cosa ne sarà distillato. Cioè, però è già qualcosa, un anno fa l'unica ossessione tedesca, giusta in quel caso, non è che siamo contro il contenimento dei conti pubblici e della spesa, era però il fiscal compact, cioè il fatto che tutti i paesi dovessero impegnarsi con una legge a portare a zero il deficit, che è una cosa buona e giusta, che però va accompagnata anche con iniziative per fare crescere l'economia, se no qua di solitagli si muore. Mi sembra che già un salto culturale, linguistico ci sia stato, no? Certamente, certamente. I segnali tra ieri di Draghi, oggi di Monti, Van Rompuy, Hollande, le aperture, vedremo che tipo saranno tedesche. Il problema è veramente, veramente politico. La cosa interessante è il discorso di Draghi ieri all'Europarlamento. Sì. Certamente è stato anche, come avete ricordato, la questione del è meglio tagliare le spese che non aumentare le tasse. Tutti d'accordo. Lui ha detto sostanzialmente, così l'ho interpretata io, ma non ovviamente non soltanto io, oggi la mancanza di visione politica, di decisione politica, di chiarezza su dove va, su dove sta andando l'Eurozona, cioè verso quali obiettivi politici, è un fattore di instabilità. Oggi Monti grosso modo ha evocato il tema. La risorsa primaria della decisione politica è ciò che manca in Europa oggi. Cioè, il problema è che sul tavolo sappiamo che cosa ci deve fare, almeno in teoria, per rilanciare l'economia. Il problema è qual è la forma concreta che prende il coordinamento delle politiche economiche e qual è l'obiettivo concreto, anche a medio termine. Vogliamo l'Eurobond, vogliamo la mutualizzazione di una parte del debito, vogliamo i project bond tolti dal computo, dal calcolo del deficit ai fini della disciplina di Maastricht. Ecco, su questo ci deve essere chiarezza, ma è una questione politica, non è una questione, diciamo, di scelta tecnica. No, no, è solamente politica, e fai bene a ricordarlo. Le due ipotesi più forti le hai appena citato. Gli Eurobond significa una parte del debito dell'area euro è di tutta l'area euro, no, e non dei singoli paesi. Personalmente lì, insomma, qualche dubbio ce l'avrei, mi convince di più, ma il mio giudizio vale nulla, l'idea che invece l'Europa, per finanziare alcuni progetti di infrastrutture per esempio, ma anche infrastrutture di carattere informatico, non solo le autostrade o le ferrovie, usi un finanziamento europeo e quindi emetta delle obbligazioni a progetto, diciamo, senza che poi queste ricadano sul calcolo del deficit e del debito dei singoli paesi, perché comunque si libererebbero risorse in maniera, a mio avviso, anticiclica, un po' keynesiana. So che i tedeschi si irrigidiscono quando uno pronuncia questa parola. Michel Barnier ha annunciato 12 misure per la crescita, Antonio, entro settembre. Sì, Barnier è imperativo, naturalmente, come in questa fase della Commissione Europea, vedremo. Veramente non ho capito. Neanche io, perché 12 misure, se non ci dici quali, okay. Si tratterà sicuramente non tanto delle riforme della questione della regolazione finanziaria, che c'entra con la crescita, ma diciamo come contesto, ma si tratterà delle misure, non so in termini di regolamento, di direttive, di revisione, meglio, di direttive esistenti, per l'approfondimento, per la maggiore integrazione del mercato interno, cioè per sfruttare a pieno tutta la risorsa che deriva dal fatto di avere la libera circolazione, certo, di merci, capitali, servizi. Secondo il quotidiano El País, che ne ha parlato domenica 29 aprile, la Commissione europea starebbe preparando una sorta di piano Marshall in grado di mobilizzare 200 miliardi di euro di investimenti pubblici e privati per riattivare la crescita in Europa. Il piano punta a lanciare investimenti in infrastrutture, energie rinnovabili e tecnologie avanzate con la partecipazione del settore privato. Secondo El País, il piano verrà presentato in occasione dell'incontro dei capi di Stato e di Governo dell'Unione europea fine giugno. Il piano includerebbe grandi prestiti europei sotto forma di eurobond, un maggior coinvolgimento della Banca Europea degli investimenti e l'intervento del meccanismo di stabilità finanziaria permanente. Abbiamo visto sulla stampa durante il fine settimana alcune cifre molto speculative e molte speculazioni che, per quanto ci riguarda, non hanno niente a che fare con la realtà, ha commentato Pia Anrekilde, portavoce della Commissione europea, riferendosi alle indiscrezioni di stampa relative a questa sorta di piano Marshall. Sentiamo la portavoce europea. We have seen some highly speculative figures out there, speculation which have no reality as far as we are concerned. Abbiamo visto sulla stampa alcune cifre molto speculative e molte speculazioni che riteniamo non abbiano niente a che fare con la realtà.